140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Musica e cinema nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Teatro dell'Opera, Sanremo. Tutti pronti per la sbornia sanremese, soprattutto il direttore musicale, una personalità fondamentale della musica italiana, Mauro Pagani. Beh, fate cosa, ma molto bello. Devo dire, io ho anche la fortuna che mi occupo di canzoni e sto alla larga da tutto quanto riguarda il gran varietà, che è un lavoro meraviglioso, ma che sono veramente felice che faccia qualcun altro. E da un punto di vista della musica, delle canzoni, per me è stata una bellissima esperienza, perché tutti hanno portato due canzoni, quindi in realtà solo con i big, se facciamo i conti, i big sono due canzoni a testa, quindi sono 28 pezzi. Poi ci sono gli otto giovani, fanno 36, più ci sono 14 pezzi della serata storica, sono 50, più ci sono i vari pezzi degli ospiti che saranno in giro, che sono 2 o 3 a puntata, 5 puntate, 5 per 3, 15, siamo a 65-70 pezzi da preparare, provare. Da un punto di vista professionale è una bella sfida. Devo dire, come ripeto spesso, sto imparando tantissime cose. Non so bene a che pro, però questo è un altro discorso. Intanto le sto imparando, mi capiterà di usarle da qualche altra parte. Quando vi hanno presentato i brani, vi hanno presentato delle registrazioni, e invece poi sentirle dal vivo nel Teatro Ariston con l'orchestra, com'è stato? Anche a me, devo dire, fa una certa impressione. Un'altra impressione che mi fa è sentire realizzati gli arrangiamenti che ho scritto io per alcune cose, no? Perché tu fin quando li pensi, poi ti fai il provino a casa col computerino, che ha questo suono triste da computerino, tic tic, tic, con gli archi finti, e roba così, e poi quando arrivi qui e c'è l'orchestra che suona davvero, devo dire, emozionante. È una bella fortuna, è bello. Lavorare coi big e invece lavorare coi giovani è diverso? No. No, perché comunque lavorare, certo, lavorare con i giovani hanno un entusiasmo che gli altri non hanno, però sono proprio due facce della stessa medaglia, nel senso che i ragazzi sono pieni di energia, arrivano, c'è una delle ragazze dei giovani, no? Che proprio l'ho vista, è arrivata, ha provato il suo pezzo e poi è stata tutto il giorno in platea, ascoltare le prove di tutte, a guardarsi in giro con gli occhi proprio spalancati, felice come una Pasqua. I vecchi non ce l'hanno più questa cosa, però hanno le stesse preoccupazioni, hanno le stesse ansie, hanno, quando poi il maestro comincia a staccare il pezzo, hanno tutti la stessa reazione. Certo, magari i giovani hanno un po' più di batticuore, ma il batticuore ce l'hanno tutti. Molti big hanno detto Sanremo sì, perché c'è Mauro Pagani, è una responsabilità. Sì, quello sì, devo ammettere, abbastanza. E poi temo sempre di essere sopravvalutato, perché forse è vero il contrario, cioè la decisione da parte di Fazio di coinvolgermi era segnale di un'attenzione a certi contenuti già decisa in precedenza, per cui in realtà è proprio Fabio e il suo gruppo di lavoro il responsabile di tanta buona qualità. Lei ha fatto tante cose a Sanremo, ha accompagnato Roberto Vecchioni, è stato con la PFM, ha accompagnato Arisa e soprattutto si è esibito in una delle pietre miliari della storia del festival, 1988, spero di non sbagliare. Andrò laggiù nella valle dei timbales, mateones, marones, salmones, dai kyrie evangelos, laggiù dove la femmina è procace, vivace, mordace, fugace, vorace, lo so, laggiù. Senza un 740 Celentano non canta, la garra non c'è più, laggiù. Con le dita nel naso, la lenzuola di raso, è il mio amore Mario. segnato davvero la storia di questa manifestazione. Va bene, grazie. La Valle dei Timbales. Esatto. Ma perché i figli di Bubba non si sono più esibiti insieme? Perché ci siamo resi conto. Allora noi ovviamente eravamo un gruppo di cretini che si sono messi insieme per il puro piacere di fare i cretini. Ci siamo resi conto lì che, a parte due o tre di noi che facevano i comici di mestiere, io lì mi sono reso conto che fare ridere è un lavoro terrificante, difficilissimo. No, a parte quello, è stato veramente uno scherzo fondato sul fatto che io sostengo che dentro ognuno di noi c'è un cretino a cui bisogna dare libera uscita ogni tanto, perché sennò viene fuori lo stesso e nel momento meno opportuno, come dimostrano molti politici italiani e molti altri. Per cui in realtà è salutare ogni tanto, per cui ogni tanto uscite, scherzate, mettetevi gli occhiali da credito, non so, divertitevi. Sugar Music, Milano. A Sanremo è la favorita, anche l'orchestra del festival da sempre tifa per lei. Malika Ayane cede alla tentazione e ci riprova. Ma io l'ho tentata, poi non è che ci riprovo, io penso che come Cannes o i festival del cinema, no? Visto che avevamo già fatto questi parallelismi, uno fa un disco e lo presenta così come uno va anche alle fiere, se vuoi, no? Magari inventi un prodotto, un tessuto, o reinterpreti il Tuxedo, perché non farlo? Perché non farlo vedere a tutti? Te lo chiedo subito, quando dicono che sei favorita, a te che impressione fa? Ma a me è ovvio che fa piacere, cioè essere l'ultimo, cioè essere, non ti importa di essere considerata la favorita quando non sei l'ultima della lista, ecco, mettiamola così. Però cioè, per quanto possa sembrare retorico, per me l'atmosfera da festival è quella in cui vai, senti, cioè presenti le tue canzoni, conosci meglio tutti gli addetti ai lavori degli altri, no, dalla stampa agli arrangiatori, direttori d'orchestra, musicisti, quindi è un momento secondo me molto bello, molto positivo per un confronto per chi fa il mio lavoro, e quindi cioè, appunto, diventa relativa poi la vittoria. Due canzoni, due bambini, ne sbatteranno fuori uno, ma che ingiustizia! Ma io protesterò il giorno dopo, mi incateno al teatro comunque vada per difendere l'autonomia dell'altra canzone. Sorriderò prima di andare, basti non soffio e sparirò, forse sarà pericoloso, forse sarà trovi un'orchestra che per te ha lanciato gli spartiti in aria per protesta, c'è dell'affetto immagino per quel palco, per quell'orchestra. Ma sì, sono arrivata alla prima prova in Rai, è stato, cioè, ero emozionata, cioè, era come tornare a scuola dopo la fine delle vacanze, in cui proprio c'è dell'affetto sincero, della stima reciproca che non è così scontata, proprio perché, voglio dire, proprio quando ti trovi a lavorare in questi grandi numeri di persone, troppi cantanti eccetera, puoi lasciarti, no, perdere ogni tanto, e invece, cioè, loro veramente una luce negli occhi, una serietà mentre lavorano che è bellissima, cioè, io solo per quello sono contenta, cioè, possono anche rimandarmi a casa dopo che ho fatto, cioè, l'esibizione del primo giorno, così mi tolgo anche il problema dell'eliminazione della canzone. L'illusione di un'estate che non si... questo festival della spending review, come lo vedi? Insomma, tutti dobbiamo risparmiare su qualcosa. Tu hai confessato di aver risparmiato nel fare i video, che però sono bellissimi. Però vabbè, tu sei un po' raccomandata perché conosci il regista, lo conosci, quindi... Allora, a me piace questa cosa del darsi una regolata, perché in questo modo di fatto il festival dà più attenzione alla musica. Per la prima volta ci troviamo con un festival che sta in piedi, cioè come pilastro centrale ha appunto le canzoni che sono in gara. E quindi a volte gli ospiti troppo altisonanti possono togliere, cioè deconcentrare anche gli autori stessi, no? dal dover organizzare uno spettacolo. Quindi mi piace perché distribuisce responsabilità a tutti quelli che devono lavorare lì. E infatti, cioè, ti senti molto più proprietario di quel palco, e anche l'orchestra, ho notato, cioè, è un lavoro molto più impegnativo che ne so, 20 canzoni più gli stacchetti e i balletti, no? Ci vuole una concentrazione maggiore, quindi questo secondo me si sentirà poi cioè, a casa guardando lo schermo. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Cinema e musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. Il libro Studio Illegale svelò i retroscena del mondo degli avvocati. Ora diventa film, diretto da Umberto Carteni. Lo interpreta Fabio Volo. Avevo letto il libro in funzione, diciamo, del progetto film, e quindi mi piaceva l'ironia con cui veniva raccontato e anche in qualche modo, come dire, smontato un mondo che all'apparenza sembrava così un impero meraviglioso, invece poi è fatto anche di piccole miserie umane. Un impero al quale forse più qualche anno fa aspiravano i ragazzi di provincia, e noi che siamo ragazzi di provincia questa roba l'abbiamo sempre vista. Però ti posso dire che io sono, da ragazzo di provincia, sono venuto a Milano circa, diciamo, 20 anni fa, un po' meno di 20 anni fa, ovviamente con il mito che a Milano erano avanti, no? Cioè almeno a Brescia era così, no? Perché a Milano sono avanti. Poi quando vieni qui, il primo periodo, almeno nella mia vita, era voglio assomigliare a loro, cioè voglio essere avanti con loro, quindi guardi le scarpe che hanno, la felpa che hanno, cerchi di vestirti, magari c'è uno figo che usa sempre un vocabolo, glielo rubi, come, Poi dopo, se sei sveglio, capisci invece che invece l'autenticità è molto più forte della moda del momento, insomma. Quindi se tu mantieni una tua autenticità cercando sempre di crescere e di imparare, quello sei vincente, perché sei unico, insomma. Ma non si vergogna? Beh, intanto un tessuto tecnico fatto con un materiale innovativo statunitense, per cui non vedo cosa ci sia da vergognarci. È arrivata un'altra multa per la raccolta differenziata. Ancora? Ma perché deve dare per scontato che sia io? Ma io le sembro uno che, insomma, che non sa distinguere i rifiuti? Piuttosto terrei d'occhio il pianista, che quello non ci vede, non capisce. Carta e plastica, stessa roba. Porti il rispetto al maestro. Maestro, sono capaci tutti, dai. Andrew però ha 30 anni, tu qualche filino in Andrew. Più. Andrew. Sì, non lo voglio chiamare Andrea perché è Andrew. Andrew. Ha 30 anni, tu un filino in più. Alla fine però questa nostra generazione un po' assurda di quarantenni adolescenti non stride. Perché noi siamo sempre, possiamo essere quarantenni, trentenni, uguali, tanto siamo sempre ragazzini? Lui, anche se è un avvocato, alla fine è un po' ragazzino, eh? Lui è molto ragazzino, io ne ho 40, è molto ragazzino, però poi dipende, perché un conto è la leggerezza con cui uno può affrontare la propria vita, gioie e dolori. Un conto è la superficialità con cui uno affronta le cose. Io credo che la leggerezza, che viene spesso confusa con superficialità, invece sia una buona formula. Cioè, rimanere fanciulli, ci è voluto del talento per uscire ad invecchiare senza diventare adulti, come diceva Battiato, oppure mi ci è voluta tutta una vita per ritornare giovani, come diceva Picasso. Mi sembra una buona formula, insomma. Mondo del lavoro. Sì. Questo libro ha qualche annetto. Un po' il mondo è cambiato in qualche anno. Tu come lo vedi? Sì. Tu come lo vedi? Anche perché io immagino che tanti ragazzi ti scrivano, ti contattano. Il mondo del lavoro, purtroppo... questo sarebbe da fare un discorso che dovremmo fare una puntata di 12 ore solo su questo, no? Che è un po' il problema anche della politica, il problema del lavoro, il problema del cinema, cioè siamo sempre allo step 1. Allo step 1 è il mondo del lavoro uguale occupazione, perché ovviamente se ci sono molti disoccupati, molti giovani che non trovano lavoro, quello deve diventare il problema principale. Il problema è che se non si va allo step 2 e il 3 non si può risolvere lo step 1, almeno dal mio punto di vista. Esiste una fetta di persone che non hanno un lavoro, ed esiste una fetta di persone che fanno un lavoro ma ne vorrebbero fare un altro, no? Che quando uno fa un lavoro e non lo ama non produce ricchezza, cioè le 8 ore di uno che odia il proprio lavoro valgono un terzo di 3 ore di uno che ama il proprio lavoro. Allora tu vuoi fare un programma radiofonico, te ne fanno fare un altro, no? E tu lo fai quello e poi sogni un giorno magari di farti sul web una cosina piccola che sia solo tua. Uno lavora in un ristorante, in realtà voleva fare il tabaccaio, tutta una roba mischiata così. Questo mondo del lavoro produce che quando uno ne ha uno che non gli piace ma è l'unico che c'è, se lo tiene stretto e quindi preferisce un'infelicità alla disoccupazione, perché ovviamente ognuno di noi ha anche delle spese e vuole probabilmente anche progettare un futuro. E così vale per la politica, qualsiasi campagna elettorale, anche questa è sempre su meno tasse, ti tolgo l'ICI, adesso ti tolgo l'IMU, però se non c'è lo step 2, cioè una prospettiva di crescita, non si risolverà mai, fermo restando che poi il problema dell'impiego è anche legato alle macchine e alle tecnologie, e quella cosa lì è una strada che non si può invertire. Finché non ci sarà una ridistribuzione del capitale sarà sempre così. Però si parla sempre dello step 1. Volevi una risposta più breve, immagino? No, sono conquistata da questa profondità dell'alfiere, no, della leggerezza, no. Fabio Volo. No, ci mancherebbe. Questo film esce in un momento orribile per il cinema italiano. Tu come lo vedi? Come ti avvicini in questo, insomma... Per gli incassi... Lo sbigliettamento... Ma quello uno spera sempre che le cose vadano bene, però io non avendo avuto una relazione universitaria con la mia vita, non faccio mai uno studio nell'attesa che poi uno mi dia un voto. Io nel momento in cui studio devo godere di quella cosa. Se io mi sono donato un momento bello della vita, vada come vada, poi c'è sempre da migliorare, c'è sempre da imparare. Io spero ovviamente che questo film vada bene, ma se dovesse andare male sono contento comunque di averlo fatto, perché per me è un bel film e io sono contento. Però se ti piace quello che fai, solitamente quando c'è quell'attenzione lì poi le cose vanno bene. Studi di Radio 24, Milano. È uno dei cantautori più amati di oggi. Timido e svagato, ora fa uscire un cofanetto con un solo 45 giri e un brano, Cuore di pietra. Lui è Dente. È particolare, appunto, un giocattolino ed è stata fatta appositamente così, in forma di gioco. È una canzone con un testo a doppia lettura. Quindi superficialmente sembra una cosa, in realtà ne nasconde un'altra. Da da da da. Esatto, raccontacelo un po'. Nasconde, in realtà la canzone si intitola appunto Cuore di pietra, che sembra una cosa poco romantica e terribile, però poi c'è aggiunto preziosa, quindi è pietra preziosa, e dentro al testo sono nascoste 8 pietre preziose, non esplicitamente, infilate dentro ad altre parole, però volevo proprio fare questa cosa qua, appunto. Mi è venuto in mente, ho detto scrivo una canzone che si chiama Cuore di pietra e poi ci metto dentro le pietre preziose, no? E questo ho fatto. E poi ti sei divertito a giocarci anche un po' sopra. Cosa hai combinato? Ho combinato ultimamente, dunque questa canzone era finita nel mio disco uscito nell'ottobre del 2011, e ultimamente invece mi è venuta questa idea folle, cioè di fare 8 versioni diverse della canzone, come 8 come sono le pietre, e quindi ho fatto 8 versioni diverse e le ho infilate tutte quante dentro un 45 giri. Alla vecchia maniera, ci sono state tutte, fortunatamente, perché la canzone è comunque molto breve, insomma, fosse una canzone di 10 minuti sarebbe stato un po' più difficile. Cuore di pietra preziosa, fa che non ti rubino la voce, fa che non si parli mai di amanti, già da tempo non ci penso più. Per la tua gonna turchese, per i fogli e le matite, Io so da lì te non ti muovi, anche se io ho palesemente voglia di te. E poi ti stai divertendo a coinvolgere coloro i quali acquistano questo cofanetto, perché lo si può fare attraverso il tuo sito ufficiale. Cosa fanno? Delle fotografie, le postano su Facebook? Mi sono divertita a guardare. È una cosa che è nata spontaneamente e mi è piaciuta molto. La gente, quando riceveva il cofanetto, lo fotografava, faceva dei piccoli video e li postava. Allora abbiamo deciso così di chiedere alla gente appunto di farlo, no? E lo stanno facendo, stanno mandando le loro foto vicino al loro gatto piuttosto che sul giradischi o piccoli video, insomma è una cosa molto carina. Molto carina perché è nata spontaneamente, no? Tu scrivi per te stesso, scrivi anche per altri. Chiara, che è stata la rivelazione di X Factor, è andata subito, finita subito a Sanremo, insomma un po' il fenomeno del momento, hai scritto anche per lei? Esattamente, mi ha chiesto un pezzo. In questo periodo si parla molto di lei, quindi sì, insomma sì. È importante. No, lei mi ha chiesto un pezzo, lei è una ragazza molto simpatica e molto attenta anche alla scena della musica italiana, chiamiamola nuova. E, quindi era una mia fan e veniva sempre ai concerti e poi insomma mi ha chiesto di scriverle un pezzo. Io avevo una canzone lì, pronta ma molto strana. E allora ho cercato di renderla un po' meno strana, anche perché scrivo un po' anche in base ai miei limiti vocali e strumentali, no? Quindi scrivere una canzone per uno che canta veramente bene è difficile, no? Ma non fa un po' male poi regalare una canzone a qualcuno, anche se è tua? Poi tu scrivi spesso di cose tue. Sì. Sì, sì, sempre, diciamo, non spesso. Io me lo chiedo, allora lo confesso. Spesso e malvolentieri. Sì, no, è così, però, beh, insomma, si fa. Anche le cose che fanno male a volte possono poi far bene. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.